No, non gli ho consegnato niente. Ma se ti sento, vabbè che c'è la colonnina messa al contrario, ecco perché. Provo a parlare adesso. Non ce l'ho andato a consegnargli niente. Se quando esci tu vai, vaci, portaglielo. Tanto per vigile notturno che c'è lì alla all'Eurosfin, capito? La mattina. E quello di via Carlo Felice, davanti al rifornitore. Sono chiamati Cicci, in pratica rimarrà. Come mi ascolti il radio? Cazzo, c'ho 1.4 in stazione, non riesco a farlo scendere, ecco perché se ieri sera stavo facendo schifo, cazzo. Come scaldavo alle finale andava in saturazione. Ma il culo per me che ci ho messo quell'antenna VEU, che è stata nella, dove c'è la mantova, mi sta creando problemi. E già la distacco. Che mi stavo forzando tutto, adesso sono con l'accordatore agganciato. Ieri tutto a un tratto, dopo un'ora che sono che ho usato il baracchino, ho cominciato a uscire tutto quanto sacro e ha giurito. Mi sembra strano questa storia, poi mi è venuta in mente, non sarà che c'è stazionario, no? Ciu che ciu. Avanti, chi è? Chi è avanti? Ciao Giulio. Oh, ciao. L'ascolto qua, sì. Ehi, stavo controllando un coso, un baracchino. Capito? E quindi lo sto provando. Ok. Già sta facendo il trattamento, là. E io sono tentato, mi è uscito a saturarsi dopo che era 3 ore acceso, 3 ore e mezza. Sono di saturazione, controllo che c'è stazionaria quasi a 2, adesso ci ho messo l'accordatore. Neanche sacco e gli distacco l'antenna della VHF, per forza. E quello mi sta creando problemi alla mantova, sono mi falsa tutto. E come mai? Come mai io, Antone? Non lo so, lo stile passa da una riga all'altra, passa a metà, capito? Quella che fa pipetta. Purtroppo c'è sempre qualche problemino. Mi stai arrivando il 9.5, stai arrivando qua. 9.5 già va bene. La voglia. Sì, quello sì. Già va bene, la radio non è molto chiara, comunque già può andare bene, dai. È un microfono normale questo? Sì, quello l'ho capito, già si sente che è un microfono normale. E vabbè, comunque, tanto mio ormai non c'è più nessuno per questa, Ah, quello già è vero, l'ho fatto. E nemmeno il PMR non c'è mai nessuno. Sempre chiuso, tutto chiuso. Io il PMR, sono un po' io lo uso, la verità. Sono da parecchio che non sto usando il PMR. Ieri l'ho acceso, ho fatto un giro di qui Canariotto, del PMR, e ho chiuso subito perché intanto non c'era nessuno. Quindi figura di tu. E d'altronde cosa ci vuoi fare? Un po' per il caldo, la gente se ne va al mare, un po' ci sono quelle persone che lavorano anche, per cui, e allora, tutto tace. Già è vero, quello già è vero. Purtroppo è così. Nemmeno la notte, prima si avevano preso l'abitudine di fare questo la notte, qualcuno. Adesso nemmeno quello stanno facendo più. Per cui, infatti io la notte quando mi curico controllo, invece vedo se c'è qualcuno, e invece ho notato che non c'è più nessuno, nemmeno la notte. Io vuol dire che hanno qualche altra cosa da fare, senz'altro. E allora ci guardiamo la televisione, cosa ci vuoi fare? D'altronde va bene lo stesso, non c'è problema. Va bene, sì. A voglia. Appunto. E vabbè, dai. Caspita. Non ho più sentito, ad esempio, Luca deve essere in vacanza, deve essere da qualche parte, Luca del Monte, non l'ho più sentito. Poi lo stesso quel ragazzino, quel Riccardino, lo stesso, o sta andando a scuola, non so se hanno aperto le scuole, oppure anche lui è in vacanza. Poi prima non lo sentivo, questo Fabio che modulava con alcuni di voi, tutti quelli di quella zona, nemmeno quello si è più sentito. Quell'altro, come si chiama, quel Nicola, vabbè, quello è sempre senza antenna, io non lo sento qua. Anche quello, ma almeno con qualcuno di voi già parlava, quelli vicino, non si sono più sentiti, tutti spariti. Tutti per terra, so. Tutti andati sono andati tutti quanti a farsi i bagni al mare. Allora, tutti come ci hai visto, so. Ma cari dai, non è possibile, comunque. È andata così, pazienza. Anche quello di Muros, prima sembrava che avesse preso di nuovo l'attività, spariti anche quelli, padre e figlio, che si va ad esempio l'entrata dalle Rurioni e l'uscita dalle Romassoni. Sempre così succede. Sì, magari sta facendo roba, adesso fa poco li prendono le scuole, e quindi devono prepararsi per accompagnare i bambini a scuola. Adesso lo sai che a settembre aprono, quindi... Sarà pure così, non lo so, adesso è settembre, mi sembra che riaprono le scuole, ma comunque. Lasciamoli fare, che è meglio. E tu, cosa stai combinando? Uscendo stai? Sono uscito l'altro giorno, sono andato a prendere i pezzi da Fusaro, adesso ho preparato il baracchino di riposo, di Marchisio. Ho visto già funziona, ieri ha fatto quel difetto strano di uscire in saturazione tutto un tratto, quando era caldo, dietro, bollente. Allora ho pensato qui ci devono essere stazionale per forza. Ok. Sicuramente. Vabbè che con questo caldo si scaldano più del normale, per cui, cioè perlomeno più in fretta del normale. Però quando è troppo è troppo, quando scalda troppo allora c'è qualche problema sicuramente. Infatti, qua ci sta scaldando normale, sta scaldando, ho visto, difetto non lo sta facendo. Ok, andare, cosa dire, no, anch'io non sto uscendo, tanto se esci non ti puoi avvicinare a nessuno. Deve stare con la mascherina, poi con tutto il caldo che sta facendo, tanto vale che conviene rimanersene a casa, al fresco, senza stare lì a andare in giro, a fare che cosa pure. Visto e considerato che non ti puoi avvicinare nemmeno alle persone per il fatto del contagio. E allora ce ne rimaniamo a casa. C'è caldo, già c'è caldo la vista. Figurati, la voglia. Ehi, anche troppo, oggi 2 gradi più di ieri ci dovrebbero essere, per cui se vuoi immaginare, lasciamo scaldare, chissà quanti incendi ci saranno oggi in Sardegna. Sì, spero di no. Speriamo di no, perché se no siamo sempre da capo con questa caluria. Vabbè, tu pensi, in questo momento ci sono 34 gradi in questo momento e dovremmo arrivare anche a 37 gradi, quello che mi sta dicendo il meteo. Figurati, 37 gradi non è nulla. Tante sono, perché come fai ad andare in giro con questo caldo e con la mascherina? Se vuoi essere un po' tranquillo devi mettere anche la mascherina, ripeto, non puoi avvicinare un amico, non puoi avvicinare nessuno, deve stare sempre a distanza, perché è tanto uguale. Tenete male a casa e ciccia, non passerà questo problema del coronavirus. Boh. Non lo so, bisogna avere questo ottobre, cosa succede? Perché i malati si pidano ottobre, purtroppo. Io ho la sensazione che dura tutto l'anno e magari anche parte del prossimo anno. Speriamo di no. Boh. Vabbè, comunque. L'accettiamo come viene, accettiamo il tempo come viene, tanto non è che possiamo cambiare niente noi. Visto considerato che ci sono anche quei deficienti che vanno in giro, che stanno di nuovo facendo risalire i contagi. Sì, lo so, mi sembra che abbiamo una ventina adesso, prima erano due, tre, non di più, adesso sono saliti di nuovo. Tutti i giorni ce n'è sempre qualcuno in più, qualcuno, più di qualcuno, in Italia poi non ne parliamo, sempre intorno ai 450 giornalieri in più di contagi. Ma comunque, l'unico fatto positivo è che ci sono meno morti rispetto a prima. Prima tutti i giorni c'erano tantissimi morti per coronavirus, sempre che fossero per coronavirus, perché ho la sensazione che tante di quelle persone che sono morti anche per altri motivi, non solamente per coronavirus. Se no, come fai tu a vedere tutti i giorni sul giornale 20 persone che sono decedute? Lo facevano prima, da sempre, da anni, e nello stesso periodo del coronavirus erano sempre come numero, erano sempre quelli. Che significava che non tutti morivano di coronavirus, morivano per altri motivi. Sì, ci sono anche altre malattie, magari ce ne sono, ma tutti, c'è quello, c'è quell'altro, capito? Manco controllati li hanno, una volta che hanno la febbre e cose del genere, la tosse, tutti per coronavirus sono. Poi prendono e li cremano, cosa ne sanno, perché non sono morti. Infatti è così, magari avendo una certa età nemmeno li controllavano le persone e li lasciavano morire così, ma comunque, cosa vuoi fare d'altronde? Oh, vabbè che anche tra i medici a Sassari ci sono molti, una marea di medici anche, e non solo medici, infermieri eccetera eccetera. Poi non parliamo della casa di riposo, tutti quegli anziani nelle case di riposo, guarda, c'è stata una strage, c'è stata in questo periodo. Aspetta un attimo, vengo subito. Vabbè dai, anch'io vado lontano tanto da Baracchino. Ci sentiamo, dai, ciao Antonio, ciao. Come è? ambientare come barono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Che presente che il microfono parla male, eh? Guarda un pochino. Eia, allora già va bene. Dopo gli metto le viti, così dello slavo è a posto. Mi portate le funzioni bene. Io fico il microfono, se c'è ne aggiusto, 27255 è perfetto. Eia, già va bene, già va bene. Il microfono tuo era quello con la mano con la rossa, se non mi ricordo male. Anche perché c'è l'altro Galaxy e... ho un altro tipo di microfono e anche attacco di voce addirittura. A me se ci metto un microfono amplificato del mio, non ho capito perché, qui l'alternata, non capisco perché. Sono se già mi ha preso. Non è funzionato bene, c'avevo un salone, ho fatto un altro che dal salone, passare in cavaletta, l'alimentatore, evidentemente c'è qualcosa nell'alimentatore, dicevo. Mi aveva creduto una sguardo, anche l'altra volta mi aveva detto, ci stai scendendo con la tornata, ho detto che buca, è strano. Aspetta che provo nel tuo, a vedere come esce, se è compatibile, aspetta. Ciao, ciao, stasera.